Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che dal marzo 2012 mette gli altri animali al centro del dibattito su attualità, cultura, economia, consumi e tanto altro ancora, per affermare una prospettiva nuova secondo la quale l'umano dovrebbe fare i conti con gli altri viventi del pianeta, i non umani, con i quali negoziare un nuovo patto di convivenza più equo. Questa puntata è dedicata alla cavallina di Acate, uccisa in provincia di Ragusa, e al lupo Drago, ucciso in provincia di Ancona. Due vite spente in modo atroce, due sguardi sul mondo che vengono a mancare con tutte le loro domande. Ricordarli è il minimo che possiamo fare per restare umani, per restare, come ci piace dire, animali umani. Questa è la puntata numero 637 nella quale faremo una breve riflessione sulla Pasqua, parleremo del nuovo provvedimento del Ministero della Salute che classifica alcuni animali come non destinati alla produzione di alimenti, approfondiremo il tema della carne sintetica nella nostra rubrica ecologista lessico dell'antropocene e racconteremo le storie del lupo Drago e della cavallina di Acate. Oltre a tanti buoni spunti per riflettere, parleremo anche di cucina con una ricetta cruelty free a tema pasquale e la musica che accompagnerà le nostre parole consisterà in canzoni ispirate a romanzi distopici. Cucina e colonna sonora sono entrambe curate dal nostro eclettico Gabriele Palloni. Speriamo di avervi incuriositi. Are falling all around. Time I was on my way. Thanks to you, I'm much obliged. Such a pleasant stay. But now it's time for me to go. The autumn moonlight's my way. But now I siamo in pieno periodo pasquale, una festa che dovrebbe celebrare la vita e che invece, per chi ha una sensibilità animalista, antispecista e vegan, ha il cupo rumore della morte. Perché, per chi ha orecchie per ascoltarlo, romba forte il belato degli agnelli, che altro non sono che bambini separati dalle madri, uccisi e poi messi in vendita. A volte vengono visti anche spellati e interi nel cellophane dei reparti di frigo dei supermercati. È una visione non proprio edificante anche per chi ha lo stomaco forte ed è consapevolmente onnivoro per scelta. Non ci metteremo a fare un sermone in questo spazio, ma ci ha colpito un post su Facebook che è tanto breve quanto incisivo. Nella foto si vede un tenero agnellino bianco con una pistola captiva, cioè quelle pistole che stordiscono prima dello sgozzamento, di colore nero, che gli viene puntata alla testa. Nulla di straordinario è quanto accade ogni giorno nei mattatoi, centinaia di migliaia di volte. Eppure il messaggio, nella sua semplicità, non lascia indifferenti. Ve lo leggiamo. Tutti parliamo di pace, desideriamo la pace, invochiamo la pace. Cominciamo allora col togliere la guerra dal nostro piatto. Come non essere d'accordo con l'autore Roberto Baccaro, specialmente in un momento come questo, in cui una spaventosa guerra mondiale sembra che possa avere inizio da un momento all'altro, possiamo forse capire che un'altra guerra, quella verso i viventi non umani, è iniziata migliaia di anni fa e non è mai finita. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. Quando c'è una buona notizia bisogna darle il massimo risalto, specialmente perché affrontando la questione animale dobbiamo raccontare spesso storie di intenso dolore. Un comunicato della rete italiana dei santuari che ospitano animali liberi da situazioni di schiavitù segnala una notizia che era attesa da 10 anni e in modo particolare era attesa in questo tempo di peste suina. Gli animali ospitati dai rifugi non saranno più classificati come destinati alla produzione, alla stregua degli animali allevati come oggetti da vendere al chilo, bensì saranno finalmente classificati come individui a cui viene garantita una vita incolume. Lo ha annunciato il Ministero della Salute, che sta per emettere un provvedimento che, a partire dalla gestione proprio della peste suina africana, va incontro alla richiesta che da oltre 10 anni la rete dei santuari di animali liberi in Italia porta avanti per tutti gli animali rifugiati, salvati dai macelli, che sono loro ospiti. Fino a oggi, infatti, gli animali che vivono nei rifugi sono stati classificati come animali d'allevamento e sottoposti alla stessa normativa e agli stessi controlli dalla ASL locale. Adesso finalmente saranno registrati sempre nella banca dati nazionali della zootecnia, ma come non destinati alla produzione di alimenti, quindi animali degni di vivere. Tirano un grosso sospiro di sollievo tutti coloro che convivono con maiali da compagnia o comunque con maiali liberi di esistere e che in questa gestione della peste suina stavano vivendo il terrore che arrivasse da un momento all'altro la ASL con un tragico ordine di abbattimento. Cosa che fino a oggi poteva accadere. Sara D'Angelo, coordinatrice della rete, presidente e responsabile del rifugio Porci Comodi di Milano, spiega la straordinarietà di questa conquista in un comunicato stampa. Oggi si apre uno scenario completamente diverso dal passato. Chiediamo ora al Ministero di allargare la comunità degli eletti delle specie che possono beneficiare di questo riconoscimento, perché deve essere chiaro che per ogni animale salvato ce ne sono milioni che sono scomparsi e che dal momento della nascita al momento della morte non hanno mai incrociato uno sguardo gentile. Per informazioni sulla rete dei santuari in Italia e magari per visitare quello più vicino a voi, www.animaliliberi.org. Questa settimana torna la rubrica Ecologista Lessico dell'Antropocene, curata da Francesco Panier, giornalista, attivista e grande esperto di questioni ambientali. Visto che la crisi in Ucraina crea un'enorme difficoltà di approvvigionamento di mangimi e foraggi per gli allevamenti, segnalata da tutti gli allevatori, abbiamo pensato di proporvi il nostro consueto sguardo critico, stavolta sulla carne sintetica. Sentiamo. Oggi affrontiamo un tema spinoso che ci costringe a guardare un po' più a fondo il mondo del cibo, delle alternative vegetali allo sfruttamento degli animali e alla complessità di un intervento sistemico che permetta l'emancipazione di tutto quel vivente non umano, ma anche di quello umano, relegato ai margini dei nostri spazi di convivenza. Partiamo da un nuovo rapporto dell'IPES Food, un gruppo di esperti di alto livello che si occupa di sistemi alimentari con uno sguardo vicino ai movimenti sociali e in particolare ai paesi del sud del mondo. Il rapporto è intitolato The Politics of Protein, la politica della proteina e rivela i lati oscuri di una serie di alternative alla carne che l'industria alimentare sta sperimentando e mettendo in commercio. La cosiddetta fake meat, la carne sintetica e le sue varie declinazioni, viene descritta dalle aziende che la producono e la vendono come una tecnologia sostenibile che permetterebbe di risolvere in un sol colpo diversi problemi: le sofferenze di tanti animali negli allevamenti intensivi, l'inquinamento che generano con le loro deiezioni, la deforestazione e il cambiamento climatico. Gli esperti dell'IPES Food, gruppo presieduto dall'ex relatore per il diritto al cibo delle Nazioni Unite, il belga Olivier de Schutter, sostengono invece una tesi opposta. Spiegano nel loro studio che la carne finta può causare più danni che benefici, consolidando il dominio delle multinazionali sui sistemi alimentari e aumentando la dipendenza dall'energia fossile che alimenta l'industria dei cibi iperprocessati. Inoltre, la produzione massiva della cosiddetta fake meat favorirebbe diete standardizzate, che vengono definite occidentalizzate perché molto distanti dalle tradizioni dei popoli africani, asiatici o latinoamericani. Nel rapporto, l'IPES Food mette in guardia dalla possibile perdita dei mezzi di sussistenza per gli allevatori del sud del mondo, soppiantati da finte carni prodotti da una serie di multinazionali che vengono elencate con dovizia di particolari, andando nel dettaglio dei loro investimenti. I trend di mercato sembrano molto incoraggianti per questi colossi, ma rischiano di far precipitare i sistemi alimentari da un problema a un altro, senza volgerli a un destino di salute, equità ed etica nella produzione. Da un lato dobbiamo ammettere che non hanno torto, pur essendo golosi, questi cibi sono infatti del tutto insalubri e poco nutrienti, in quanto artificiali e iperlavorati. Ci passiamo sopra perché il loro consumo ci evita il diretto sfruttamento e l'uccisione degli animali, il che è nobile. Tuttavia, non possiamo chiudere gli occhi di fronte al fatto che la diffusione dei grandi marchi di carne sintetica presenti diversi problemi. Un uso intensivo di imballaggi in plastica, la standardizzazione dei sapori, la colonizzazione dei mercati locali e l'occidentalizzazione delle diete di popoli che perdono le loro tradizioni, spesso imperniate proprio intorno a sistemi alimentari di piccola scala più sostenibili di quelli ipertrofici dei paesi ricchi. Tuttavia, gli esperti di IPES Food non ci spiegano perché dovremmo trovare più etica o tollerabile la violenza solo perché praticata su più piccola scala. I sistemi alimentari contadini sono infatti violenti e gerarchici anch'essi, e il destino che attende gli animali dei piccoli pastori nomadi è un destino che da soli non avrebbero scelto mai. Ancora una volta, forse, lo sforzo deve essere quello del dialogo con questi mondi, ma anche del fermo rifiuto della logica del male minore, in quanto questo è il male di qualcuno, che dovrebbe avere la stessa dignità e diritti che abbiamo attribuito a noi umani. Dobbiamo quindi assolutamente pensare al più presto a modelli di convivenza non violenta di umani e non umani nei sistemi alimentari. È possibile ed è necessario. Cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura? Ve lo rivelano gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo. Fu nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio. È morto Drago e lo hanno ucciso. Hanno ucciso un magnifico lupo dotato di radiocollare perché tempo prima era già stato recuperato ferito ed era stato curato presso un centro di recupero e reimmesso in libertà in buona forma. È stato trovato in strada, ma non è stato vittima di un investimento. Gli hanno sparato. È stato ucciso a fucilate e non si sa se sia stato trasportato da chi lo ha ucciso al bordo della strada, forse per simulare una morte da investimento, o se, pur gravemente ferito, l'animale abbia avuto la forza di trascinarsi da solo vicino alla strada dove è morto. Questa puntata di Restiamo Animali è dedicata a Drago, trovato in provincia di Ancona, lungo la strada appenninica che va da Arcevia a Fiuminata. Si tratta di una zona purtroppo tristemente famosa per ricorrenti e macabre azioni di bracconaggio. Sono tanti i lupi ammazzati a fucilate, avvelenati o finiti in trappole per cinghiali ritrovati negli ultimi mesi ed anni in quell'area. Le associazioni animaliste locali denunciano che ad aggravare la situazione c'è la decisione della Regione Marche di permettere le braccate al cinghiale fuori stagione e anche in prossimità dei centri abitati, con la scusa della peste suina. E sappiamo anche che chi va a caccia non ha i lupi in simpatia. Il gesto è stato spregevole e vile, ma se ci fosse una seria intenzione di tutelare il lupo, dicono le associazioni, gli strumenti ci sarebbero. A mancare è l'attenzione delle istituzioni e di troppi cittadini insensibili alla vita selvatica, ai suoi diritti e al nostro stesso diritto di coesistenza con essa. Are you such a dreamer to put the world to rights? I stay home forever, but tune to always makes a fight. Come abbiamo anticipato in apertura, questa puntata è dedicata a una cavallina di Acate, in provincia di Ragusa, una femmina di pony di 10 anni che è stata prima rapita e poi uccisa in modo sadico da 2 uomini sulla Trentina che sono stati identificati. È accaduto lo scorso 3 aprile alle ore 5:30 circa del mattino, quando i due l'hanno legata dietro un'auto con un'imbracatura. La vettura, partita a tutta velocità, avrebbe trascinato l'animale sull'asfalto, causandogli lacerazioni e fratture esposte del cranio, del torace e del ventre. Dopo le reiterate sevizie, la cavallina è stata abbandonata sul ciglio della strada statale 115, sud-occidentale Sicula, che da Acate si dirige verso la costa. Le foto sono inguardabili. L'animale sarebbe stato rubato a una persona anziana che però non avrebbe denunciato il furto, furto che sarebbe opera di soggetti pregiudicati. Un episodio simile può avere un duplice significato: o il gesto di criminali che si sono divertiti nel veder soffrire una cavallina, o, molto più probabilmente, un segnale di supremazia su un territorio dove gli animali, i cavalli in particolare, sono tenuti in scarsa considerazione, specialmente negli ambienti malavitosi. Questi ambienti in cui è maturato l'episodio di violenza sono quelli della malavita locale, dove corse clandestine di cavalli e cinomachia a scopo di scommessa non rappresentano episodi rari. Questa dolce e incolpevole pony ha dato l'occasione a 2 umani di mostrare il livello di tragica crudeltà di cui siamo capaci. Il servizio per ricordarla è a cura dei Troglodita Tribe, autori del libro Chiudiamo i canili, edito da Ortica Editrice 2022. Questa redazione, assieme ai Troglodita Tribe e a tante altre realtà e singole persone, si dichiara indisponibile a rassegnarsi a questa situazione. I'm alive. Ricordando una cavallina siciliana. Era una cavallina di 10 anni. È stata rubata, legata ad un'auto, trascinata per ben 5 chilometri e poi abbandonata sul marciapiede. È successo ad Acate, in provincia di Ragusa. Riprendere questa notizia è angosciante e deprimente, ci fa venire in mente quanto siamo indietro, quanto l'attivismo, l'informazione e la sensibilizzazione siano sempre insufficienti, poco incisivi, poco impegnati di fronte al deserto di sensibilità, di consapevolezza, di coscienza politica che abbiamo intorno. Continuiamo ad essere la specie dominante che può fare ciò che vuole di tutti gli animali. Continuiamo a farlo indisturbati, anche compiendo azioni così riprovevoli. La pony è morta, è stata raccolta dai volontari dell'OIPA di Ragusa con ferite troppo gravi e profonde, una morte atroce e piena di sofferenza. E neppure si sanno le motivazioni di un tale gesto. Una bravata, uno sgarbo, una provocazione. Il responsabile, un familiare del proprietario, è stato identificato, insieme ad un complice che ha tentato di coprirlo, grazie alle telecamere che lo hanno ripreso lungo quel folle percorso di morte. Ma tanto si sa, i provvedimenti nei loro confronti saranno minimi. Gli animali non sono soggetti di diritto, sono oggetti di proprietà, solo carne da macello. Sì, carne da macello, perché, anche se non tutti ne sono a conoscenza, in Sicilia il consumo di carne di cavallo è alquanto diffuso. Soprattutto a Catania il numero di macellerie equine e anche di locali che la propongono, quasi fosse una specialità del luogo, è molto elevato. Carne di cavalli arrivati a fine carriera, esausti, malati, sofferenti, quasi sempre maltrattati e sfruttati fino all'ultima stilla di energia, soprattutto nelle gare clandestine che continuano ad imperversare e a muovere ingenti quantità di denaro gestito dalla mafia in diverse città e paesi siciliani. Quella di Acate era solo una pony, disgraziatamente venuta al mondo su questo pianeta, una terra ormai governata dal feroce dominio umano che ci sta trascinando verso un'indifferenza e un'apatia devastanti. Alcuni cittadini di Acate hanno però deciso di non voltarsi dall'altra parte, collaborando attivamente alle indagini. In città è stata anche indetta una piccola manifestazione per ricordare la cavallina e anche per sensibilizzare i cittadini sui troppi maltrattamenti nei confronti degli animali. Al momento il comune non ha ancora condannato ufficialmente l'accaduto. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Per concludere la puntata abbiamo chiesto al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni di proporci qualcosa che abbia a che fare con la Pasqua. Andiamo a sentire qual è la sua proposta. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Per celebrare la prossima Pasqua sono andato a scomodare una ricetta tipica delle Marche e, manco a dirlo, l'ho rivisitata in chiave vegetale per una tavola senza crudeltà. Gli ingredienti per uno stampo alto di 15 cm di diametro per la crescia di Pasqua sono 40 g di farina di ceci, 100 ml di acqua, un pizzico di curcuma in polvere, 150 g di farina forte, 250 g di farina tipo 0, un cucchiaio di lievito alimentare a scaglie, 150 g di grattugiato vegetale, 10 g di lievito di birra, un pizzico di zucchero di canna, 150 ml di latte di soia, 50 ml di olio extravergine di oliva, sale e pepe nero. Stemperate la farina di ceci nell'acqua. Aggiungete la curcuma, il grattugiato vegetale ed il lievito a scaglie. Unite anche un generoso pizzico di pepe nero e lasciate riposare per 15 minuti. Nel frattempo sciogliete il lievito di birra nel latte di soia tiepido assieme al pizzico di zucchero di canna. Lasciate riposare 5 minuti ed unite il tutto all'impasto precedente. Con l'aiuto di una planetaria o con le mani, mescolate l'impasto e unite poco alla volta i due tipi di farina. Una volta che tutta la farina sarà ben incorporata, unite l'olio extravergine ed il sale e lavorate fino ad ottenere un impasto liscio, omogeneo e ben elastico. Adagiate l'impasto nello stampo precedentemente spennellato di olio e lasciate lievitare in forno con la sola luce accesa per circa 4 ore, in ogni modo fino a quando avrà raddoppiato il suo volume. Trascorso il tempo necessario, senza togliere la teglia dal forno, accendete il forno a 180 gradi in modalità statica e fate cuocere per circa 40 minuti. A questo punto abbassate a 150 gradi e cuocete ancora 10 minuti. Se dovesse risultare non asciutto alla prova a stecchino, lasciate ancora qualche minuto in forno. Una volta cotto, spegnete il forno e lasciate raffreddare la crescia al suo interno con lo sportello aperto. Adesso non vi resta che portarla in tavola. Ricordiamo che Gabriele Palloni è autore di alcuni libri di cucina. L'ultimo, edito da Newton Compton, si intitola Se vuoi vivere sano, cucina vegano. Per questa puntata è tutto, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione al completo, composta da Valentina Reggioli, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Anna Granata, Gianluca Masala, Francesco Panier e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 638 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.